Siamo qui con Leonardo Tancredi, educatore, direttore responsabile dello street magazine Piazza Grande e autore dell'antologia Effetti Collaterali, una raccolta di 5 storie, appunto di 5 personaggi, le cui vite si intrecciano nel drammatico periodo del lockdown. Come è nata l'idea di scrivere questa antologia di racconti? Ma non avevo proprio intenzione di scrivere un'antologia di racconti quando ho cominciato, per essere sincero, perché pensavo di scrivere una prima storia sul primo personaggio che è Renato, meglio una coppia di personaggi. Volevo raccontare questa storia erotico-sentimentale tra una coppia di anziani, e però ho cominciato a farlo in quel momento storico, cioè durante il lockdown, e quindi poi per forza di cose l'ambientazione è stata quella, cioè quella della pandemia e del lockdown. E da lì ho sentito, mi è venuta voglia più che altro di raccontare altre storie possibili che si potevano notare in quel momento, e ho provato a scegliere dei personaggi, diciamo così, inusuali o che in qualche modo erano costretti, insomma, a vivere in una qualche forma di disagio data la loro condizione. Poi da lì ho parlato di un vigilantes di origine gambiana, un migrante, di una tranviera in crisi coniugale, di una donna tossicodipendente. Poi insomma c'è un personaggio finale che è un rider, anche lui atipico, perché un rider, diciamo, fuori tempo massimo data la sua età anagrafica, che mette insieme tutti i personaggi. Ecco, è una raccolta di racconti, ma sono fortemente interconnessi, ogni personaggio appare anche nei racconti delle altre 5 vite. Quanto c'è di reale, nel senso quanto ti è stato magari effettivamente raccontato da qualcuno insomma, rispetto alle storie, e quanto c'è di fittizio? Ma è quasi tutto, diciamo così, reale. Ecco, forse il mio problema è che ho poca fantasia, ma ho messo insieme pezzi di vite reali, appunto, che conosco per relazioni personali o per conoscenze professionali. Ecco, diciamo che ogni personaggio è un collage di vite reali che ho poi ricomposto e ho fatto agire nei vari racconti. E come dicevi prima, tutte le storie sono interconnesse, infatti sono tutte ambientate a Bologna. E che ruolo ha la città all'interno del libro? Ma sì, sono storie prettamente bolognesi, senz'altro. Ci sono descrizioni di luoghi, di strade. Penso un po' perché, cioè, come dire, non potevo fare diversamente. Io, è anche la mia prima esperienza pienamente letteraria, e quindi non ho potuto fare a meno di scrivere, diciamo così, in presa diretta, no? E ho immaginato che questi personaggi si muovessero in ambienti che potevo descrivere bene, insomma, al meglio. E quindi sono strade, luoghi bolognesi. Poi appunto anche la città si mostrava in un aspetto decisamente peculiare, no? Nei giorni del lockdown, e quindi mi piaceva descrivere quello che vedevo anche in quella condizione particolare, le poche volte che riuscivo ad uscire, ovviamente. E c'è uno dei 5 personaggi che ti è più caro degli altri, a cui sei particolarmente legato? Ma allora mi viene da dire l'ultimo personaggio, Lucio, il rider, perché ecco, diciamo così, è un perdente totale, no? Un perdente disperato. Per fortuna non sono del tutto sovrapponibile a lui, ma ecco, è quello per il quale forse sento più solidarietà, ecco, mettiamola così. Grazie mille. Grazie a voi.